Occhio alle preposizioni. A. Ascolta e controlla. Quattro ragazze sono nel soggiorno del loro appartamento. Lina guarda la TV. Manuela e Gemma sono affacciate alla finestra. E Daria ha in mano il volantino di una nuova compagnia telefonica. L'offerta è conveniente per tutti. Daria telefona spessissimo ai suoi amici e a sua sorella. A Gemma costa un occhio usare il telefonino per scaricare la posta elettronica. Tempo fa, sul giornale, le ragazze avevano trovato un modulo da riempire per ricevere in omaggio dei detersivi per lavatrice. Ma gli ci sono voluti dei mesi per usarli tutti e sono rimasti dietro la porta della cucina per tanto tempo. Intanto Lina pensa di chiamare il numero verde per il nuovo lavoro.